Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, 10 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, in un giorno in cui la borsa obiettivamente non fa notizia. Invariata Milano 0,07, invariata Parigi più 0,07, Francoforte meno 0,4, Londra più 0,5. Diciamola tutta, le borse sono praticamente ferme perché attendono domani la Banca Centrale Europea, quindi nessuno va a esporsi troppo. Gli Stati Uniti meno 0,13%. Comunque, al di là delle borse, faccio notare che oggi ci sono due notizie di cui ci occuperemo in maniera approfondita. Una riguarda quanto paghiamo la tassa sui rifiuti. Perché? Perché c'è uno studio della Confartigianato che è abbastanza... è vero che ogni anno scopriamo quanto ci costa la tassa sui rifiuti, però le tariffe, la Confartigianato ha messo assieme le tariffe degli ultimi 5 anni, sono aumentate del 22,6%. Perché lo dico? Senza nessuna polemica. Poi è inutile parlare della tassazione complessiva del paese quando le tasse locali o le tasse accessorie aumentano in questo modo, perché insomma il 22,6% non è l'aumento medio dei redditi in Italia negli ultimi 5 anni. La regione in cui la tassa è più salata, e così si arrabbieranno gli abitanti del Lazio, è appunto il Lazio, dove tra l'altro è molto alta la percezione di sporcizia, riporta la Confartigianato, a dimostrazione che, ahimè, non c'è una correlazione tra costo della tassa sui rifiuti e servizio, visto che ieri proprio l'AMA, se non ricordo male, ha annunciato che avrebbe licenziato i 14, se non ricordo male, dirigenti assunti nel giro di Parentopoli, ma insomma non c'è, erano 34 dirigenti, non 14, mi ricordavo un 4, ma no, 34 dirigenti assunti con la cosiddetta Parentopoli, ma dicevo non c'è una correlazione tra costo della tassa sui rifiuti e servizio reso. Poi vi arriviamo, faccio notare che in Lazio è a 214 euro a persona, il 30% in più rispetto alla media nazionale. La Campania, dove sul tema dei rifiuti, ahimè, ci siamo dovuti, del tema rifiuti in Campania ci siamo dovuti occupare spesso, ha un costo del 20% superiore alla media nazionale. Parleremo anche di questo, così come parleremo invece dei dati relativi alla usciti dalla Confcommercio. La Confcommercio oggi ha un insieme di dati in cui il dato positivo è che segnala il presidente dei commercianti italiani che è il primo Natale dopo 7 anni in cui i consumi sono previsti aumentare, quindi col segno positivo. La prudenza è d'obbligo per l'incognita terrorismo, e questo, di questo parleremo. Dovrebbe essere, secondo la stima del Centro Studi Confcommercio, che avremo ospite, un più 5% la spesa media a Natale. E attenzione però, è ancora di un 30% sotto i livelli pre-crisi. E cioè, pur essendo la prima volta che i consumi sotto Natale aumenteranno, di un 5% non è poco, come media, siamo a un 30% in meno. Ossia, se io spendevo 100 euro nel 2007, adesso continuo a spenderne 70, pur con un leggero aumento per le spese, i consumi natalizi. La tredicesima è in crescita leggera dell'1,2% a quasi 40 miliardi di euro. Il fisco se ne beccherà di questi 40 miliardi, quasi 8 miliardi. Per le spese dei regali di Natale, 10 miliardi la spesa stimata. Parleremo anche di Volkswagen, perché da un lato si è tenuta l'assemblea di fabbrica della Volkswagen con la partecipazione di circa 20.000 dipendenti, ma dall'altro si è avuta notizia anche delle perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede della Porsche Italia, con diversi indagati. La Guardia di Finanza ha perquisito la sede di Porsche Italia questa mattina a Padova. 349-238-6666 per i vostri sms e per la pagina di WhatsApp, dopodiché anche la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Allora, mi chiedete dell'euro. Sì, l'euro oggi è in indebolimento, anche qui l'attesa su Mario Draghi si fa sentire. A 1,0570, quindi sotto quota 1,06 l'euro. Per quello che riguarda le notizie di carattere internazionale, il petrolio oggi è di nuovo in calo del 2% quasi a $41 al barile, ma sempre lì oscilla. Ha fatto molti siti, riportano notizie, anche i giornali, del fatto che Mark Zuckerberg sia diventato papà, e da questo punto di vista siamo contenti per lui, ma chi se ne frega. Il problema è meglio la notizia, che abbia donato 45 miliardi di dollari in beneficenza, praticamente due manovre dell'Italia. L'avesse fatta l'Italia sta beneficenza, avevamo sistemato le due manovre finanziarie, le due leggi di stabilità per i prossimi due anni. 45 miliardi donati da Zuckerberg e da sua moglie Priscilla Chan, e si sono impegnati appunto a vendere il 99% delle loro azioni, che valgono questa cifra, alla filantropia, con la creazione della Chan Zuckerberg Initiative. È un po' sul modello della Bill Gates Foundation. Faccio notare una cosa: tutti questi neomiliardari della Silicon Valley hanno questo atteggiamento. C'è Bill Gates, c'è Zuckerberg, ci sono stati anche altri casi. Posso permettere la battuta, a differenza dei banchieri di Wall Street, che avranno fatto sicuramente beneficenza, ci mancherebbe, non possiamo sapere, ma di grandi fondazioni fatte negli anni d'oro, in cui i banchieri beccavano 15-30 milioni di dollari ogni anno di bonus, non ricordiamo notizie, magari ci sbagliamo. Da lì un po' l'idea di una Wall Street avida, della finanza avida, mentre diciamo della new economy più sensibile al sociale. Beh, insomma, questi elementi ti portano a usare questa distinzione. C'è però, non tutti se la passano bene nella new economy, come si chiamava una volta. Yahoo, che era fino a 6-7 anni fa considerato uno dei grandi nomi del mondo dell'information technology, è sempre in maggiore difficoltà, nel senso che oggi Wall Street Journal scrive che Yahoo starebbe per considerare la vendita delle sue attività principali e addirittura anche la cessione della sua partecipazione nel colosso cinese dell'e-commerce Alibaba. Nonostante la nuova capa di Yahoo da 3 anni, la CEO Marissa Mayer, abbia imposto una corsa a cavalli, non ci sono grandi novità nei bilanci, tant'è che, come è giunta notizia, o meglio come Wall Street Journal ha ipotizzato una cessione degli asset principali, il titolo è cresciuto in borsa del 4,3%. Oltretutto in Yahoo si starebbe registrando anche un esodo inarrestabile dei top manager del gruppo, che capita l'aria, mandano i curricula in altri posti. Un'altra grande società americana, ma non c'entra niente l'information technology, mi riferisco a McDonald's. Ebbene, sarà la quarta multinazionale americana a finire nel mirino delle autorità europee per motivi fiscali. È sempre il solito tema: queste grandi multinazionali che mettono la sede fiscale dove pagare le tasse, dove più gli conviene, che sia Lussemburgo, che sia Liechtenstein, che sia l'Irlanda, e magari invece sviluppano le loro attività in altri paesi. Ora non so quanti McDonald's, quanti venda McDonald's in Lussemburgo, immagino che non sia da lì il grosso dell'attività, e infatti l'Europa vuole indagare su questo, e su questo si concentrano anche i 100 secondi di Radio 24, sulle 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alessandro Plateroti. Promuovi il tuo business con i servizi di Nuvola Store di Team Impresa Semplice. Con contatti Power e Vetrina Power dai più valore ai tuoi clienti e alla tua attività sul web. Info su nuvolastore.it. Vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. dice che necessità faccia virtù, ed è proprio esattamente quello che sta facendo in questo momento l'Unione Europea, ma anche i singoli stati, parti dell'Unione, sulla questione fiscale. C'è un'offensiva fortissima contro le multinazionali che scelgono la propria sede legale e fiscale per aggirare le aliquote alte che pagano in casa. Qui non stiamo parlando delle aziende italiane, o almeno non soltanto delle aziende italiane, ma un po' di tutte le aziende del mondo, e questa volta è toccato a McDonald's, il re degli hamburger. McDonald's, secondo quanto si apprende infatti, sarà proprio in questi giorni sanzionato o chiamato a rispondere dall'Unione Europea per la decisione di spostare in Lussemburgo la propria sede fiscale, un'operazione, diciamo così, di carattere societario che consente però alle multinazionali di indirizzare profitti e dividendi verso il Lussemburgo e in questo modo non pagare le aliquote più alte a cui sono soggette sulla tassa dei redditi d'impresa nei vari paesi del mondo. Finora era caduta nella maglia Amazon, era caduta l'Apple Computer, ma anche persino la Fiat, ma l'idea che anche McDonald's abbia fatto lo stesso ha creato qualche stupore, non solo perché si presenta come l'immagine buona del capitalismo americano, ma soprattutto perché ha sempre fatto un po' della questione etica un cavallo di battaglia. Fatto sta che la questione si porrà sempre di più, finché non si arriverà ad un'armonizzazione anche fiscale in Europa, la tentazione di spostare la sede e pagare meno tasse degli altri sarà sempre più forte. La questione è all'ordine del giorno anche per un altro motivo, quella della lotta al terrorismo e ai finanziamenti illeciti. I canali attraverso cui passa l'evasione fiscale, a cui passano per i paesi i paradisi fiscali vari che ancora esistono in Europa, sono spesso anche utilizzati, infatti, dalle multinazionali del terrore. L'offensiva è in campo, speriamo anche di vedere presto i risultati. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, mentre sì, ricevono numerosi messaggi che nella zona del Vicentino del Padovano la radio non si sente bene, stiamo lavorando, abbiamo avvisato i tecnici di bassa frequenza, e anche che Zuckerberg ha donato le sue azioni alla sua fondazione. Ho capito, ma le ha sempre donate per una fondazione, che cosa vuol dire? Non capisco la polemica. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento, so che è molto di fretta, il capo del centro studi di Confcommercio, Mariano Bella, buonasera. Buonasera. Allora, Bella, poi ascoltiamo, invertiamo i ruoli gerarchici, poi ascoltiamo Sangalli, vede come siamo democratici, lei così potrà imbarcarsi. Ci dica intanto se il primo Natale con il segno positivo dopo 7 anni, ricordiamo però che siamo ancora al 30% sotto come consumi, e l'effetto terrorismo ammesso e non concesso, speriamo che vi sia. Dunque, ci sono tutte le condizioni, a cominciare dal Monte Tredicesimo che è leggermente in crescita, per avere finalmente dei consumi aggiuntivi nel mese di dicembre superiori a quelli dell'anno precedente. Questo non accadeva da 7 anni, diciamo c'è un 1,7-1,8% di risorse in più, circa 30 miliardi da spendere in più in tutte le spese di dicembre, e un terzo di questi 30 miliardi dovrebbero essere regali. Abbiamo fatto anche un'indagine sul campo, effettivamente le persone sono abbastanza coerenti nel dire che spenderanno un po' più a testa in termini di regali, 5% in più rispetto allo scorso anno, 30% in meno comunque rispetto al 2009. Effetto terrorismo. Allora, qui nessuno sa come andranno le cose, è difficilissimo fare previsioni. Però se guardiamo al passato, non so, 11 settembre o il luglio 2005 a metropolitana di Londra, dal punto di vista macroeconomico non c'è stata una rottura di trend, una discontinuità in termini di fiducia e di variazione del prodotto lordo. Quindi diciamo gli anticorpi il mondo occidentale ce li avrebbe per superare un episodio. Se poi chiaramente questo clima dovesse peggiorare a causa di reiterati atti terroristici, questo non lo sappiamo, non fa parte del futuro prevedibile. Effettivamente c'è stato a ridosso del 13 novembre un peggioramento del clima, ma è stata una cosa transitoria, cioè ci sono state delle cancellazioni sul turismo, sugli alberghi, soprattutto a Roma, ma questa cosa è in via di assorbimento, quindi abbiamo un outlook positivo. Senta, Bella, prima che decolli, nel senso fisico, non diciamo nell'entusiasmo per il primo Natale con segno positivo dopo 7 anni, potrebbe esserci un effetto opposto, cioè quello che è successo, ahimè, ieri a Istanbul, Parigi, tutto il Nord Africa e l'Egitto. Molto, non tutto per carità, ma insomma buona parte del Nord Africa e l'Egitto a rischio, possono spingere gli italiani a restare più in casa, più nel paese, e quindi aumentare ulteriormente i consumi? Questo è assolutamente possibile. I nostri ragionamenti sulle disdette sono soprattutto per quanto riguarda gli stranieri in Italia in collegamento con il Giubileo, ma correttamente lei sta dicendo una cosa che molto spesso invece viene trascurata, cioè se non so, consumo di meno al ristorante, magari consumo di più in casa, l'effetto complessivo a nostro avviso dovrebbe essere ma anche positivo. Se non vado a Istanbul, non vado nel Mar Rosso e resto in Italia, almeno uno lo sfizio di andare al ristorante, di comprarmi, cioè, capisci cosa sto dicendo? Poi complessivamente in un budget familiare, che siano 100 euro o siano 1000, quello che è destinato per le spese natalizie, a maggior ragione se devi rinunciare a un viaggio che avevi in programma, forse come, non dico palliativo, ma come scelta alternativa, consumi di più in Italia. Il che vuol dire però che questo 5% ci riporta leggermente a risalire, ma siamo ancora un 30% sotto dal 2000. Sì, perché il momento dei regali amplifica le fasi cicliche. Abbiamo perso l'8% come PIL, il 30% come regali, recuperiamo lo 0,8%, quest'anno guadagniamo il 5% come regali. Il regalo è un momento che amplifica appunto queste oscillazioni, quindi è perfettamente plausibile. Poi è chiaro che si tratta di stime, di previsioni, bisognerà verificarle, sono comunque soggette a errore. Però il trend mi sembra abbastanza, cioè il clima di fiducia è abbastanza solido, ci sono diversi aspetti che lo confermano, non so, il fatto che diminuisce la percentuale di persone che ritiene il rito dei regali di Natale una cosa fastidiosa, o il fatto che si decide già adesso di cominciare a pensare ai regali, quindi senza lo stress, senza diciamo lo stesso ecco punto del fare il regalo come cosa non gradita, oppure il fatto che sono molti a dichiarare che questo sarà il primo Natale finalmente fuori dalla crisi. Insomma, ci sono una serie di elementi che dovrebbero spingere al rialzo la propensione al consumo, sebbene certo i primi tre mesi dell'anno in termini di PIL non sono stati brillanti. Allora, un'ultima domanda. Sì, fare regali è una cosa fastidiosa, più bello riceverli, sono d'accordo con lei, Bella. Senta, le commissioni sul bancomat, se ne è occupato Oscar Giannino prima di questa trasmissione con il sottosegretario Zanetti. La proposta di poter pagare col bancomat anche sotto i 5 euro, vi convince o no? Ma dunque, in America, a Seattle o a New Orleans? Cioè, anche a Londra, io pago il caffè io sono stato 20 giorni con $100 negli Stati Uniti, anzitutto la famiglia, quindi abbiamo pagato tutto con la carta. Però il problema è questo, secondo lei c'è stato un emendamento per raggiungere questa situazione negli Stati Uniti? No, ci sono condizioni di mercato accettabili, possibili, commissioni basse, commissioni fisse inesistenti, che rendono fattibile il fenomeno. Noi siamo per la moneta elettronica, però bisogna eliminare la parte fissa e soprattutto abbassare drasticamente le commissioni. Infatti la FIPE chiede l'esenzione per i piccoli esercizi, le commissioni sono troppo alte, no al bar con il bancomat, che in realtà potrebbe anche aumentare. Però le dice sotto i 5 euro o levi le commissioni o non si riesce a fare? Esempio dagli Stati Uniti. Prendiamo esempio dagli Stati Uniti. Lì non è che che cambiano il mondo attraverso le leggi. Creano delle leggi per regolare un mercato in maniera ragionevole e poi il mercato prende la sua strada. E che è la strada quella della moneta. Diciamoci un'ultima cosa. Il governo avrebbe fatto meglio a tenere la soglia dei 1000 euro e a levare le commissioni sulle carte? No, la soglia dei 1000 euro per me non è una cosa straordinariamente rilevante, non fare una guerra di religione che tra l'altro ne abbiamo già... Ma insomma, avreste preferito levare le commissioni e tenere la soglia di 1000 euro? Non lo so, questo bisogna chiederlo a 700.000 italiani, di quei 200.000 alimenti. Ma secondo me era più giusto spingere per abbassare le commissioni, che tra l'altro anche il sistema bancario si lamenta del fatto che i costi operativi loro della gestione del contante sono molto rilevanti. Quindi è una torta che, se riusciamo a mangiarla insieme, beneficia tutti. Il discorso della soglia di 1000 euro secondo me non è straordinariamente rilevante, forse è un fatto così, diciamo, concettuale di libertà, se voglio spendo. Va bene, grazie, si imbarchi, voli, grazie a Mariano Bella, direttore del Centro Studi di Confcommercio, ma ascoltiamo come promesso anche il presidente Confcommercio proprio sulle stime che stavamo commentando, poi do un po' di risposte agli ascoltatori. Dunque, uno se la prende con me perché ho detto che è fastidioso per me fare i regali, ma dai, è una battuta, che è fastidioso farli ed è bello riceverli, mamma mia. Allora, il segretario della Confcommercio Carlo Sangalli sulle stime. Le condizioni economiche sono favorevoli, petrolio, cambio, tassi di interesse, e la ripresa lentamente si sta concretizzando e producendo già i primi effetti tangibili sulle famiglie. E se la prudenza è d'obbligo, anche per l'incognita terrorismo, dopo 7 anni di crisi, questo Natale potrebbe finalmente essere il primo con il segno più, perché le famiglie hanno più reddito, più fiducia, più propensione ai consumi natalizi e ai regali. Tuttavia, il governo non ha ancora vinto la scommessa di trasformare questa ripresa statistica in una crescita robusta ed diffusa. Allora, mi segnalano gli ascoltatori sia sull'SMS che su WhatsApp 349-238-6666. C'è chi scrive: io pago in autogrill il caffè con le bancomat e carta di credito. Sì, ho capito, parliamoci chiaro, però è diverso, sono diversi i costi che può sostenere una società grande come autogrill rispetto al singolo bar o al singolo esercizio commerciale. A mio avviso, se non si voleva fare una manovra o prendere una misura di carattere prettamente elettorale, perché ancora io non ho capito quale sia il vantaggio, se non per strizzare l'occhio a chi adora avere contante del passaggio dei 1.000 e 3.000 euro, bisognava imporre, come viene negli altri paesi, una riduzione drastica dei costi delle commissioni con carta, in modo che se io pago un taxi 8 euro con la carta, questo non abbia sempre il 4, mi sembra, per cento di commissione, e non si è invogliato a dirmi: no, la carta non ce l'ho, il rotolino non funziona, mi scusi, la macchina è scollegata, perché è un servizio e lui non ha un danno. Vale anche per le spese sotto i 5 euro. Alcuni dicono: vabbè, se pago il cappuccino con il bancomat sono costretto a farmi lo scontrino. Sì, però adesso non so, ma guardi che io lo scontrino al bar lo ricevo molto spesso, non vado a memoria, ma non mi sembra che l'evasione fiscale, da non raccontiamoci balle, si faccia con il caffè, lo scontrino del caffè, non è su questo. Il problema è che le commissioni che loro pagano iniziano a essere alte. Ancora, c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Sì, sono d'accordo, bisogna vedere che cosa dai. Io ho grande gioia nel dare e anche nel ricevere, ma chi se ne frega, ha fatto una battuta sui regali. E ancora ci sta segnalando che la radio ha un segnale disturbato, oltre che a Vicenza, Padova, anche a Treviso, a Pordenone, in Val Seriana. Ragazzi, se andiamo avanti così, fate prima a scrivermi dov'è che si sente il programma. Ci stiamo lavorando, la parte tecnica della bassa frequenza è corrente dei problemi di segnale. Chiedo venia agli ascoltatori di quelle regioni, meteo e pubblicità. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Allora, vedo ancora molti messaggi sui consumi. Detto questo, andiamo ci colleghiamo con Andrea Malan, perché prima di arrivare alla borsa vorrei occuparmi dell'altro tema che di nuovo coinvolge Volkswagen. Sono riprese le notizie negative per Volkswagen. Ieri l'abbassamento del voto sul debito da parte di Standard & Poor's, soprattutto i dati di 2 giorni fa sulle immatricolazioni auto negli Stati Uniti, meno 24% in Italia. Invece, qualcuno ha fatto la battuta: a noi l'inquinamento ci piace. Il dato era leggermente in crescita, però oggi ho visto contrazione nelle immatricolazioni in Germania, perché Volkswagen, assieme all'assemblea di fabbrica della Volkswagen, dove 20.000 dipendenti hanno partecipato, e la notizia delle perquisizioni della Guardia di Finanza di Porsche nella sede italiana a Padova. Tiene tutto quanto assieme il nostro Andrea Malan. Buonasera Andrea. Buonasera a tutti. Allora, partiamo da quanto ha annunciato dopo l'assemblea, se ho ben capito, verranno sospesi tutti i contratti a tempo, gli interinali, mentre verranno mantenuti i dipendenti. Sì, esatto, diciamo che è la misura più semplice, tra virgolette, per non pesare eccessivamente sulla forza lavoro. Sappiamo che la Volkswagen, tra l'altro, i sindacati sono nel consiglio di sorveglianza e sono molto più potenti di quanto siano nelle aziende italiane. Per cui sicuramente Volkswagen cercherà di salvare capra e cavoli. I dipendenti sanno già che dovranno rinunciare per quest'anno ai bonus, che valgono in Germania migliaia di euro l'anno, e l'amministratore delegato Müller ha promesso che anche il consiglio di amministrazione si taglierà la parte variabile dei compensi. Quindi una serie di misure, ricordiamo che dovrebbe essere addirittura d'arrivo il maxi prestito ponte da 20 miliardi di euro che Volkswagen si è assicurata per superare un momento in cui, dato l'abbassamento del rating, finanziarsi a lungo termine sarebbe molto più costoso e quindi poco conveniente. I vertici di Volkswagen contano sul fatto che tra un anno più o meno la bufera dovrebbe essere passata e quindi anche la valutazione del credito essere tornata a livelli più consoni al gruppo. Per quello che riguarda Padova invece? Ma Padova dovrebbe essere, credo, un seguito di quanto... delle indagini già svolte nelle scorse settimane. Ricordiamo a Verona la sede di Volkswagen Group Italia. Porsche è una controllata, utilizza, anche se in misura minore, qualche motore diesel di 3.000 di cilindrata. Sappiamo che negli Stati Uniti ci sono state già delle indagini su questo tipo di motori che potrebbero, anche se non è confermato, contenere un software simile a quello che gli americani hanno messo nel mirino 2 mesi fa. Per cui quindi tu dici, adesso loro attendono, per sintetizzare, che passi la Buriana e quindi anche l'abbassamento di voto e quant'altro, nella speranza appunto che poi il giro d'affari torni. Per quello che riguarda Padova, è il proseguo dell'indagine, ho capito bene Andrea? Siccome la sede legale, la sede legale di Volkswagen, proseguo no perché le procure sono diverse. No, dico, diciamo, però un cotè, non so come dirlo, perché la sede legale di Volkswagen è a Verona, Esatto, di Volkswagen Group Italia a Verona. E anche di Audi, giusto? E anche di Audi, mentre Porsche è a Padova. Ecco perché si è mossa la procura di Padova. Un ultimo commento, perché anche oggi tutti dovete andare, ma avete un appuntamento. Voli per caso con Mariano Bella, anche tu? Non lo so, io volo ad Amsterdam, dove domani, lo ricordo per gli ascoltatori, c'è l'assemblea di Fiat che dovrebbe decidere sullo scorporo di Ferrari. Bravo, e quella sarà poi per la quotazione anche di Ferrari. Un commento sui dati di ieri, delle immatricolazioni di ieri, perché abbastanza sorpresa, non dico l'unico paese, ma uno dei pochi paesi in cui le immatricolazioni Volkswagen non sono calate è l'Italia, ho visto male? È l'Italia, sì. Oggi tra l'altro sono usciti, lo dico in sintesi, quelli tedeschi, dove anche lì Volkswagen ha perso un 2% a fronte di un mercato che saliva del 9%, quindi con una forte perdita di quota di mercato, anche se anche lì Audi tiene e gli altri marchi del gruppo tengono. Diciamo che l'ira dei consumatori si è rivolta soprattutto verso la marca Volkswagen, identificata come responsabile. Certo. Non in Italia, dove sono riusciti a tenere meglio, sicuramente. Sì, che è una cosa interessante, cioè perdono in Germania. Per la posizione di mercato, sì. Sì, no, dico, perdono in Germania, dove uno vorrebbe dire lo spirito tedesco, nazionalista, così, e guadagnano in Italia, dove in realtà non ci sarebbe nessun motivo nazionalistico, ma tant'è. Proprio due dati completamente opposti. Domani ti riavremo in collegamento, così anticipo invece la parte seria, per parlare appunto di Fiat e Ferrari, perché questa è la tappa poi per lo scorporo di Ferrari, quotazione di Ferrari. Grazie Andrea Malan, buon volo anche a te. Non posso trasformare il programma in una segnalazione di dove la radio si prende male. Qualcuno dice che adesso è tornato il segnale Udine, ma non c'è più a Reggio Emilia, a Cagliari. Mi scrive un ascoltatore a Cagliari, tanto vi sentiamo solo in streaming. Cito solo un ascoltatore di Roma: a Roma vi si prende troppo bene. I just can't take my eyes, can't take my eyes off you. Allora, andiamo sulla borsa, che ripeto, oggi ha chiuso una giornata abbastanza moscia. Meno 0,13% Milano, meno 0,18% Parigi, Londra più 0,46%, Francoforte meno 0,60%, il Dow Jones meno 0,24%, Euro quota 1,0573. Dopo il traffico, in realtà, insomma, tutti, il titolo è facile oggi, tutte le borse dell'area euro sono in attesa della Banca Centrale Europea di domani. Qual è il preambolo? Mario Draghi ha fatto sapere che siccome sospenderà da un lato l'acquisto dei titoli di Stato da parte della BCE e delle banche centrali, il cosiddetto quantitative easing, sotto Natale, per evitare una distorsione del mercato, visto che molti operatori saranno in ferie, insomma, non c'è il mercato che c'è di solito, domani dovrebbe essere annunciato un intervento più massiccio rispetto a quello che può essere la sospensione, la pausa natalizia. Comunque ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per i vostri sms, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, il numero vale anche per WhatsApp. Nuova Audi A4, scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. Avevamo grande attesa per Mario Draghi da parte delle borse e sì, il dato si vede, anche l'euro si è indebolito per questo. Leonora Micheli, Radio Corriere sulle 24 ore, buonasera. Buonasera. Hughes Net-a-Porter più 5%, Moncler più 3,70%, Ferragamo più 1,80%, Luxottica più 1,5%. Beh, insomma, mi sembra che il lusso al lusso oggi vada di lusso. Sì, soprattutto Hughes Net-a-Porter è arrivata a guadagnare anche l'8%, oggi infatti la società ha comunicato i dati di come sono andate le vendite durante il fine settimana del cosiddetto Black Friday, sono volate le vendite soprattutto negli Stati Uniti e in Gran Bretagna e poi anche il Cyber Monday è stato un record di Cyber Monday, cioè lunedì di sconti via internet. Lunedì Cyber Monday, perché c'è anche, no, sai che questa mi coglie impreparato, c'è anche il Cyber Monday. Sì. Okay. Dopo il Black Friday tutte le società internet fanno degli sconti, quindi niente. Cioè, il Brown Wednesday non c'è, però vabbè, andiamo avanti, dai. C'è stato un piano di vendite, sono stati comunicati i dati, c'è stata una crescita esorbitante, addirittura nel Nord America c'è stato più 101% delle vendite rispetto all'anno scorso, quindi le azioni sono letteralmente volate in borsa. Per quanto riguarda Moncler, invece, i vertici dell'azienda ieri hanno incontrato la comunità finanziaria e quindi hanno sottolineato che tutti i target che erano stati indicati nel corso della quotazione sono stati rispettati, hanno inoltre un po' illustrato quelle che sono le strategie di vendita, la conquista di nuovi mercati, comunque il fatto che continuano a puntare su un prodotto di qualità che dovrebbe consentire non solo un incremento delle vendite ma anche margini consistenti, quindi gli analisti evidentemente ci credono visto che oggi le azioni sono andate molto bene e questo ha un po' ravvivato poi tutto il settore del lusso, come hai notato tu anche Ferragamo più 1,8%, Tod's più 0,66%. Sì, su questo invece c'è un titolo di cui non capisco l'andamento, non è l'unico, ma insomma Fiat Chrysler ieri ha avuto un dato sulle immatricolazioni più alto della media, 27, vado a memoria, per cento. Va bene, ha fatto un dato record grazie anche al crollo delle vendite di Volkswagen negli Stati Uniti, anche nelle immatricolazioni americane. Domani l'annuncio dello scopo di Ferrari, perde lo 0,80. Sì, perde lo 0,80, è arrivato a fare anche peggio nel corso della giornata, soprattutto dopo che, secondo indiscrezioni, è emerso che probabilmente la casa auto ha deciso di rinviare il lancio di nuovi modelli, tra i quali anche la Maserati e poi i due nuovi modelli di Alfa Romeo, per cui c'è grande attesa, a fronte del rallentamento dell'economia mondiale e soprattutto dell'economia cinese. La notizia ovviamente ha destato un po' di scalpore e subito subito, ovviamente non è stata confermata né commentata dalla società, ma sempre secondo indiscrezioni Sergio Marchionne, l'amministratore delegato del gruppo, dovrebbe annunciare cambiamenti nel gennaio 2016. Detto questo, ieri le immatricolazioni italiane sono andate molto bene, meglio del mercato, più 26% contro il più 23 qualcosa del mercato, sono andate meglio peraltro anche negli Stati Uniti, sono cresciute anche lì più del mercato. D'altra parte preoccupa il Brasile, dove invece le immatricolazioni generali sono crollate del 34%, quindi una doccia fredda che alla fine ha finito per incoraggiare qualche ordine di vendita piuttosto che di acquisto. Allora, le banche, adesso abbiamo parlato molto di Fiat così, ma, e del lusso, il vero tema sono le banche. Allora, le banche oggi sono state deboli, ma non debolissime. Cito le peggiori: Monte dei Paschi -1,5%, Banco Popolare -1,40%, Unicredit -1%, come Ubibanca e UnipolSai che perdono lo 0,90%, Unipol perde l'1,80%, e poi ancora sul fronte bancario assicurativo Generali -0,60%. Però in realtà l'attesa su cos'è? Perché molti ascoltatori mi chiedono, insomma, spieghi meglio la BCE. Ma spiegare bene il giorno prima è un po' difficile, visto che a questo punto conviene aspettare le mosse. Perché le borse sono in attesa? Forse sono in attesa, ma soprattutto le banche, perché ovviamente potrebbero essere annunciate misure che potrebbero alla fine essere penalizzanti per le banche, come si parla molto di un ulteriore ribasso del tasso sui depositi bancari. Spiego un secondo questo, cioè quello che Draghi nota è che le banche, pur di non prestare soldi o non avendo voglia o non ritenendo utile prestare i soldi all'economia, preferiscono depositarli alla Banca Centrale Europea, come una normale banca, e riprendersi la mattina il tasso overnight. E l'operazione, se ho ben capito, che Draghi ha minacciato, ma diventerà realtà, è di abbassare ulteriormente il rendimento, che è già negativo, e quindi rendere ancora più sconveniente alla singola banca. Tu vuoi usare la BCE come un deposito per ripetere la mattina, però ci perdi, così te lo rendo sempre meno conveniente. Sì, secondo indiscrezione infatti si va in questa direzione, e poi a questo punto conviene aspettare domani, e questo è stato penalizzante nei confronti delle banche. Aveva provato a rialzare la testa e andare in controtendenza intesa a San Paolo, ma poi alla fine ha chiuso con -0,4%, nonostante ieri l'amministratore delegato del gruppo Carlo Messina da Londra, in occasione dell'inaugurazione della filiale londinese, ha detto che probabilmente le cedole, i dividendi che saranno distribuiti per il 2015 saranno superiori al target indicato dal piano di 2 miliardi di euro. Ancora tra i titoli c'è un andamento positivo di Eni, +0,80%, nonostante il prezzo del petrolio, ma ho visto un giudizio positivo di una banca d'affari, no? Esatto, infatti oggi il prezzo del petrolio sta continuando a perdere terreno e sta andando male. D'altra parte su Eni hanno riacceso i riflettori diversi analisti, confermando giudizi positivi o anzi addirittura raccomandando l'acquisto dei titoli. E poi l'ultimo titolo che ho per te, Eleonora, è Telecom, perché oggi era l'ultimo giorno per acquistare i titoli che danno diritto all'accesso all'assemblea, che sarà a metà dicembre, giusto? Sì, esattamente il 15 dicembre c'è l'assemblea. Intanto ci si chiede che cosa succederà, visto che non tanto per la conversione delle azioni risparmiano ordinarie, certo, ma soprattutto per l'integrazione che è stata fatta, cioè la proposta di Vivendi di portare da 14 a 17 il numero dei consiglieri. Ma intanto i fondi hanno già espresso di essere critici nei confronti di questa mossa, di essere contrari, e quindi vedremo, potrebbero accaderne delle belle proprio il 15 di dicembre. Allora, grazie intanto Eleonora Micheli. Migliori e peggiori in assoluto: Safebag +1,22%, Friendly Energy Safebag +29%, 1,22% è il prezzo del titolo, Friendly Energy +9,27%, Panaria Group +6%, Size Getters +6,30%. Ebbene, anche ERG +4,70%, i peggiori: TBS Group -5,60%, Fiera Milano -5,30%, Rizzoli, Corriere della Sera -4,30%, e poi poca roba: SNAI -3,30%, Metacnimo -3,20%. C'è il GR24, il numero per scrivere su WhatsApp, SMS è sempre 349-238-6666, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Torneremo per parlare di crescita economica e di crescita della tassa sui rifiuti in maniera non assolutamente correlata a quello che poi è il servizio reso. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Ho deciso di indire un giubileo straordinario. Radio 24 vive l'inizio del giubileo in diretta. L'8 dicembre non perdere il nostro speciale sull'inizio del giubileo straordinario. Con i nostri inviati dal Vaticano, le voci degli organizzatori, le opinioni dei cittadini, gli approfondimenti sugli sviluppi del sinodo e dello scandalo Vatileaks. L'8 dicembre segui le storie e le voci del giubileo insieme a noi alle 17 su Radio 24. Sarà un anno santo della misericordia. State ascoltando un programma offerto da SwissQuote.it, un leader globale nel trading sul Forex. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per la seconda parte di Focus Economia. Allora, arriviamo adesso anche al dato diffuso oggi dal Confartigianato su quanto siano aumentate le tariffe per la raccolta dei rifiuti in Italia negli ultimi 5 anni e soprattutto, al di là dell'aumento, che comunque è significativo, 22,6% in 5 anni, al fatto che continui a non esserci una correlazione tra servizio reso e quanto pagano i singoli cittadini delle varie regioni. Prima di tutto però ancora dichiarazioni oggi sull'andamento del PIL dopo l'Istat di ieri che ha confermato lo 0,2% nel terzo trimestre, lo 0,8% rispetto all'anno prima, la crescita acquisita più 0,6% e il fatto che comunque sarà difficile ad arrivare allo 0,9 che stimava il governo. Già Renzi ieri ha detto forse faremo 0,8 anche se Padoan, scherzando, ha detto mi ha chiesto di continuare a tenere la linea dello 0,9%. Oggi Renzi è tornato sul tema, ha detto in una lettera agli iscritti al PD l'economia finalmente si rimette in moto, dopo 3 anni il PIL quest'anno sarà positivo, meglio delle previsioni di inizio anno, le cose iniziano a marciare, vogliamo fare di più. Il presidente dell'Istat, però, Giorgio Alleva, ha ricordato come nel quarto trimestre, per centrare l'obiettivo dello 0,9%, sia necessaria una crescita sostenuta, io aggiungo, insomma, quasi inarrivabile, visto quello che abbiamo fatto nel terzo, poi mai mettere limiti alla speranza. Sentiamo Alleva. È il terzo trimestre consecutivo, un segno positivo, che quindi conferma una dinamica differente da quella degli anni scorsi del nostro prodotto interno lordo, quindi un dato ancora positivo. Usciremo venerdì prossimo con la previsione per il quarto trimestre e l'anno, la previsione, e comunque già oggi si può valutare qual è la dimensione elevata della crescita del quarto trimestre che consentirebbe di arrivare a un valore dello 0,8, dello 0,9%. E poi il presidente della Confindustria, Giorgio Squinzi, oggi tra l'altro è intervenuto in un convegno qui al Sole 24 Ore e l'ha raggiunto la nostra Livia Zancaner. Ha detto sono un po' perplesso dal balletto delle statistiche, darei per acquisito lo 0,8%. Lo 0,8 lo darei per acquisito, poi vediamo. Diciamo che lo 0,8 non è una crescita tumultuosa. Penso che anch'io onestamente sulla base dei dati che erano usciti a un certo punto che si potesse arrivare allo 0,9 se non all'1%. Vediamo perché non qui questo balletto delle statistiche, dei numeri è una cosa che mi lascia un po' perplesso. abbiamo perso 8 punti di PIL in questi ultimi 8-9 anni, quindi ci vuole altro per riavvicinarci alla media europea, ci vuole almeno un 1% inizialmente, e poi l'obiettivo è quello che io dico da tanto tempo, che deve essere quello di trovare una crescita del 2%, perché il paese ritroverà la velocità, la capacità di generare ricchezza che possa essere distribuita sotto forma di posti di lavoro in più, sotto forma di vero benessere per i cittadini del nostro paese. Secondo me solo se arriveremo al 2%. Padoan ha detto che si può utilizzare lo spazio fiscale insieme alle riforme per aiutare le aziende, per spingere l'innovazione. Penso che abbia ragione, che penso che si possa sicuramente puntare su un migliore utilizzo dell'indebitamento che rispetto a quello che è stato previsto anche nella legge di stabilità. Io sono ottimista che si possa alla fine trovare una quadratura del cerchio favorevole. Confcommercio dice che è il primo Natale fuori dalla crisi dopo 7 anni, i consumi quindi stanno ripartendo. Se lo dice Carluccio Sangalli, io non oso smentire, lui è un grande e evidentemente lui ha dei segnali molto più diretti, molto più in presa diretta rispetto a noi, che noi dobbiamo produrre, distribuire, mettere nel mercato. Lui è sicuramente più vicino al mercato e se lo dice probabilmente ci sono delle ragioni valide. E ne abbiamo parlato appunto con il direttore del Centro Studi di Confcommercio in apertura del programma, ascoltando anche le parole di Sangalli. Attenzione, Confcommercio dice per la prima volta dopo 5 anni non ci sarà il segno meno nei consumi natalizi, più 5%, siamo ancora del 30% sotto il livello pre-crisi, cioè rispetto ai 100 euro che si spendevano nel 2007 siamo ancora a 70 euro di spesa per i consumi natalizi, come proiezione, come indicazioni che arrivano. Poi vedremo anche una verifica chiaramente ex post a consumi natalizi effettuati, e vedremo anche come e quale sarà la reazione sui saldi, altro elemento importante per capire come sta andando la propensione al consumo. Allora, arriviamo all'ultimo tema di questa puntata. La Confartigianato, in questo caso, è andata ad analizzare quello che sta succedendo con i costi. Giustamente un ascoltatore mi ha scritto al 349-238-6666 su WhatsApp, mi ha scritto: guardi che lei parla di tassa, in realtà è una tariffa che si paga su un servizio. Va bene, è vero, è corretto. Detto ciò, siccome è una tariffa che si paga su un servizio, notiamo che questa tariffa è aumentata molto, del 22,6% in 5 anni, e che, visto che parliamo di un servizio, non c'è una corrispondenza tra costo della tariffa e aumento della tariffa, oltre che costo, e servizio reso. Allora, il Lazio è la regione dove, tra l'altro lo sottolinea la Confartigianato, è alta anche la percezione della sporcizia. Il costo della tariffa per i rifiuti è al massimo a 214 euro a testa, è superiore di quasi il 30%, del 27% alla media nazionale. Poi c'è la Liguria, dove gli abitanti di quella regione spendono 211, quasi 212 euro, anche qui il 26% in più rispetto alla media nazionale. Segue la Toscana, 208 euro per abitante, il 24% in più della media nazionale. La Campania, eppure qui dispiace dirlo, non è un esempio di regione virtuosa, stando alle notizie che raccontiamo, nella gestione dei rifiuti, e sono stato buono, 205 euro per abitante, il 22% spendono i campani, che non solo hanno un problema di nettezza urbana, ma sono, si dice una volta, cornuti e mazziati, cioè hanno un problema di gestione della nettezza urbana e pagano il 22% in più rispetto alla media degli altri italiani. Segue l'Umbria, 190 euro pro capite, più 13%, Sardegna, 188 euro, più 12%. La regione più virtuosa è il Molise, e ne parleremo tra un attimo dopo il traffico. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta Focus Economia. dicevamo delle regioni virtuose, il Molise 123 euro pro capite solo di tassa o tariffa per il servizio rifiuti o servizio di igiene urbana, come si chiama. Secondo posto tra i virtuosi per il Trentino Alto Adige. Adesso dovete spiegarmi come mai in Trentino Alto Adige la raccolta dei rifiuti viene fatta pagare come tariffa 128 euro e in Lazio obiettivamente 214 o in Campania 205. È più pulito il Lazio e la Campania del Trentino Alto Adige? E anche il Friuli Venezia Giulia, altra regione che così non mi sembra tra le peggiori nella gestione dei rifiuti, solo 127 euro. Dottor Cesare Fumagalli, segretario generale di Confartigianato, buonasera. Buonasera, buonasera a lei. Allora, io dividerei la notizia in due, visto che il rapporto è vostro. Da un lato il fatto che comunque mediamente le tariffe siano aumentate del 23% quasi in 5 anni, e dall'altro che continua a non esserci nessuna correlazione tra costo complessivo della tariffa e servizio reso. Il perché dell'aumento voi l'avete capito? Il perché dell'aumento credo sia ascrivibile al fatto che questa è vera una tariffa, ma su un servizio gestito non con modalità di mercato, per cui quando i comuni hanno deciso l'aumento della tariffa resta solo poi chi deve pagare che possa adempiere. E tra l'altro sottolineo che questo aspetto noi ce ne stiamo occupando perché le delibere comunali degli 8.000 comuni, perché questa è materia in capo a ogni comune, suddivide il costo, perché da non molto tempo c'è l'obbligo di coprire i costi e quindi le tariffe devono coprire per intero il costo, lo suddividono fra costi a carico delle imprese e costi a carico delle residenze, delle famiglie. In una modalità che non è assolutamente omogenea, è dispari come l'elevatissimo numero dei nostri comuni, quindi opaca, e alla fine questo per le imprese è un altro dei costi di non competitività, perché se è vero come è vero che le dinamiche sono lontane, le dinamiche delle tariffe sono lontane da quelle degli andamenti di inflazione, sono lontane anche dagli aumenti che noi abbiamo provato ad osservare nel resto dell'Eurozona, ci dicono proprio di una di quelle funzioni, di quei prezzi che non sono regolati dal mercato e che finiscono a coprire i costi, e i costi sono determinati dalle modalità organizzative. Ecco, in effetti, se uno poi va a guardare solo gli ultimi 2-3 anni, cioè dal 2012 al 2015, l'aumento è stato del 12,5%, 9 volte e mezzo in più la crescita dell'inflazione, che è stata dell'1,6, e con una differenza del 7,5% rispetto alla media dei rincari nell'area europea. Non si capisce perché in Europa siano cresciuti mediamente del 5% le tariffe sui rifiuti, da noi del 12,5%, meglio, lo si capisce per far cassa. Alcuni ascoltatori segnalano però che sì, è vero che in Campania è alto e in altre regioni, ma è anche alto il tasso di evasione, cioè di chi non la paga mai sta tassa rifiuti. Può essere uno dei motivi? Beh, credo di no, perché in questo caso i dati sono ricavati dal costo totale, la divisione per la popolazione, quindi è una distribuzione che non tiene conto del pagato e non pagato. Si aggiunge come aggravante, se fai quella dell'evasione, sulle casse di queste aziende, sono 376 aziende, questo vale la pena sottolinearlo, è un fatto positivo, cioè si è fatta efficienza negli ultimi anni. Gli 8.000 comuni si concentrano in 376 soggetti incaricati di svolgere questo. A questo proposito, quanti sono inutili? Stiamo parlando delle municipalizzate che si occupano dei rifiuti, che questa è una buona cosa. La maggioranza sì, diciamo che i ricavi stanno sopra i costi, non avviene ancora per tutte, c'è un quasi 20% di queste aziende dove i costi superano i ricavi, però il tema in questo caso è sì dell'efficienza nel conseguire il pareggio, però quando si possa, così come avviene, liberamente determinare il costo della tariffa. Mi verrebbe da dire è troppo facile. Così. Lei dice è troppo facile quando tu fissi la tariffa che vuoi arrivare poi al pareggio di bilancio, non hai concorrenza. Faccio notare che a maggior ragione però è ancora più grave che alcune regioni non riescano, nonostante la tariffa libera e la tariffa alta, arrivare in pareggio. Qui torno al Lazio, è la più cara doppia quasi la tassa che pagano, o meglio la tariffa che pagano i laziali rispetto ai trentini o ai friulani per un servizio che non vale quel servizio. Poi vorrei vedere i dati sulla differenziata, ma lasciamo stare. E Lazio comunque è la regione dove la maggior parte delle partecipate del comune, nella, o meglio delle società municipalizzate, che nella raccolta di rifiuti sono in perdita, quasi una su due. Basterebbe prendere il caso di Roma, dell'AMA, la società che gestisce questo servizio per il comune di Roma, dire, evidenzia proprio il paradosso che dove più costa e meno rende. La restituzione in termini di servizio, anche solo percepito, perché qui poi ci sono aspetti di percepito importanti che diventano elementi dell'economia. Pensiamo a una città turistica come Roma e all'importanza che ha restituire un'immagine di decoro urbano o di indecoro urbano. Sì, molti ascoltatori, segretario Fumagalli, fanno notare che però da dove c'è la differenziata molto alta, e penso a tutte le regioni del centro-nord, in particolare, il servizio dovrebbe costare di meno. Diciamo, noi facciamo già un lavoro per differenziare, che pure sta cosa non si capisce perché ci siano queste differenze tra il 70% delle regioni virtuose differenziate e il meno del 30% in alcune regioni al sud. Costa fatica a tutti fare la differenziata, lo dico a gli ascoltatori. Costa fatica a tutti, però lo si deve fare, perché non è uno può dire ma che palle la differenziata, ho capito, che palle rispettare le leggi, che palle rispettare allora, ma la differenziata non può portare a una riduzione del servizio, no? Sì, credo che ci sia davvero una relazione. Perché c'è uno smaltimento più facile, aggiungo, nel senso che c'è uno smaltimento più facile, c'è la raccolta più facile. Costo principale, le due principali voci del servizio sono la raccolta e poi il successivo smaltimento di quanto si è raccolto, tutte e due le operazioni. Più si fa differenziata e più si va verso quell'economia circolare a cui ambiamo tutti, vuol dire che evita gli sprechi e ottimizza poi anche con capacità di riuso all'interno del ciclo produttivo di molti dei prodotti che sono diventati scarti, sono diventati rifiuto. Ma se io dicessi che più verrà aumentata e implementata la differenziata nelle regioni anche del sud e teoricamente dovrebbe calare il costo della tassa sul servizio, della tariffa sul servizio, per invogliare anche a fare differenziata, direi una cosa troppo così, troppo ottimistica. Allora, dice una cosa vera, anche se ancora molto c'è da lavorare per alcune regioni nell'efficientamento proprio delle attività a monte, voglio dire, poi quello che arriva a valle per un intervento di differenziazione del rifiuto aiuta sicuramente, come stavamo dicendo, ma c'è ancora dell'efficienza molta da fare, se è vero come è vero questa rincorsa continua sopra l'inflazione. Noi abbiamo lanciato lo sguardo all'ultimo quinquennio, ma se tornassimo anche più indietro con i dati continuiamo a trovare una curva che ha un indirizzo solo, non ha ancora conosciuto una flessione. Ridare efficienza significa arrivare ad un punto nel quale, quando il legislatore ha detto poniamo la necessità di dare copertura ai costi, credo non volesse indicare un infinito verso il quale tendere, certo. Qualunque sia il costo, cioè non funziona che tu aumenti il costo e poi cambi la tariffa, funziona che tu cerchi di ridurre il costo e di coprirlo con la tariffa. Do una precisazione però, visto che parlavo delle regioni del sud, c'è una regione assolutamente virtuosa perlomeno anche nelle tariffe, che sono in media la media nazionale, però e non a caso anche nel numero di municipali che si occupano dei rifiuti che sono inutili, è la Puglia, che dopo l'Emilia Romagna con l'83% delle società che gestiscono i rifiuti inutile è la seconda per importanza, 80%, e poi c'è il Piemonte. Tutte inutile invece, cioè il 100% delle società che gestiscono i rifiuti, quindi si può fare, sono inutile in Trentino Alto Adige, in Valle d'Aosta e anche in un'altra regione del sud che è la Basilicata. Dimostrazione che non è impossibile, non è un problema geografico, è un problema di buona amministrazione, visto che la Basilicata ce la fa, la Puglia anche quasi, e con dati migliori del centro nord e tariffe assolutamente in media con le tariffe della raccolta rifiuti nel resto del paese. Grazie anche al segretario generale della Confartigianato Cesare Fumagalli. Da Sebastiano Berisoni è veramente tutto, vi auguro una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.